Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, oggi partiamo dai Balcani. Ieri infatti a Mitrovica al processo elettorale per il Kosovo e poco fa una nota di Catherine Ashton, responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, che condanna gli incidenti di Mitrovica, che dice hanno rovinato l'altrimenti ordinato processo elettorale nel resto del Kosovo. Servizio. Violenze, intimidazioni, irregolarità, è in un clima di tensione che si sono svolte le elezioni amministrative in Kosovo, un bilancio dunque negativo per questa tornata elettorale considerata un test cruciale per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, per il futuro della convivenza interetnica tra maggioranza albanese e serbe, per l'avvio di un cammino verso l'integrazione europea. Era la prima volta dalla secessione della Serbia nel 2008 che un voto in Kosovo vedeva la partecipazione anche dei serbi kosovari presenti soprattutto al nord. Coinvolgimento ritenuto fondamentale per il successo dell'accordo dello scorso aprile tra Belgrado e Pristina con la mediazione della UE che prevede la creazione di nuove comunità autonome serbe in Kosovo. Ma le difficoltà, come si diceva, sono state evidenti a causa della forte ostilità degli estremisti e ultranazionalisti serbi che al nord hanno assaltato seggi, minacciato gli elettori e piazzato anche ordigni esplosivi. Il risultato? Una bassa affluenza, soprattutto al nord, a prevalenza serba, che potrebbe complicare l'attuazione dell'accordo di Bruxelles. A questo punto, infatti, a guidare le municipalità serbe del nord potrebbero essere esponenti di etnia albanese, il contrario di quanto auspicato da quell'accordo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora ad Atene, la struttura della Troica si è rivelata inconcludente per la soluzione dei problemi ed ha fatto più male che bene. Questo è uno dei passaggi salienti di un articolo apparso questa mattina sul quotidiano greco To Vima, di fatto è un'intervista del presidente del Parlamento Europeo, il socialista tedesco Martin Schulz. Oggi ad Atene l'ha incontrato la nostra Valeria De Rosa. Sentiamo un breve estratto di questa intervista. I think they are worrying us a lot. The rise of right wing. Martin Schulz dice la crescita dei movimenti populisti di estrema destra e di estrema sinistra indica che le cose in Europa non stanno affatto andando come dovrebbero, è il segnale che la gente è molto delusa, che ha perso la fiducia nelle istituzioni nazionali ed europee e, prosegue il Presidente del Parlamento Europeo, è un segnale di allerta che ci dice che dobbiamo migliorare la qualità della vita delle persone. È questo il messaggio, dice Schulz, tanto a livello nazionale che a livello europeo. E a proposito di dati europei, dall'inizio della crisi il settore bancario dell'Eurozona ha perso il 12% in termini di attivi, si legge nel rapporto stilato dalla BCE sul settore bancario, secondo cui alla fine del 2012 gli asset ammontavano a 29.500 miliardi di euro. Il ribasso peraltro è concentrato nel 2009, meno 10%, in calo anche il numero assoluto delle banche e dei soggetti finanziari che si sono ridotti da 2.909 a 2.645. E ora torniamo invece alla denuncia che il parlamentare europeo Sondergaard porta e porterà giovedì di fronte al Parlamento europeo, denuncia che riguarda gli sprechi degli denari europei, dei soldi europei per la ricostruzione dell'Aquila. Era il 6 aprile 2009, naturalmente, quando il terremoto devastò l'Abruzzo e il centro storico. Sentiamo Sondergaard. Ecco, i soldi inviati dall'UE dopo il terremoto non sono stati spesi secondo le regole e le normative. Questo ha significato meno abitazioni ricostruite e meno persone aiutate. Per di più, quello che è stato fatto è stato pagato troppo. Già secondo lo studio della Corte dei Conti, i prezzi della ricostruzione eccedono il mercato del 158%. L'intervista, che ritrovate in forma integrale sul web, su radio24.it, è stata realizzata dalla nostra Laura Bettini. E con questo è tutto per l'Europa. Naturalmente l'appuntamento torna domani alle 14. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.